A bordo campo di Dario Ricci. Non cambierà mai, mettiamoci in testa che non cambierà mai. E noi dobbiamo prendere il meglio di Mario e magari a piccoli passi può anche magari sorprendere tante persone. Un'idea, è possibile così abolire l'uso dei social network durante il ritiro azzurro, visto che stanno creando sempre, creano dei problemi? Ma sì, stiamo pensando sicuramente a tanto, nel periodo del mondiale avremo un regolamento interno abbastanza rigido. Un po' più ferreo, quindi. Assolutamente sì. Così Cesare Prandelli ha preannunciato l'introduzione di un codice etico comportamentale nella gestione dei social network nella nazionale azzurra in vista di Brasile 2014, dopo le recentissime polemiche che hanno coinvolto Mario Balotelli e chi se non lui, ormai siamo abituati, per quel tweet malandrino in cui Super Mario sembrava aver preso le distanze dal suo ruolo di testimonial anticamorra in occasione dell'ultima trasferta della nazionale a Napoli contro l'Armenia e la parallela visita al campo Giarusso, il campo della nuova quarto, società sottratta proprio alle influenze camorristiche. È stato questo solamente l'ultimo di una serie di episodi che hanno visto protagonisti campioni dello sport, calciatori forse in particolare, e social network, e in particolare proprio Twitter. E proprio questo tema vogliamo oggi analizzare qui a bordo campo con un esperto, Andrea Barchiesi, amministratore delegato di Reputation Manager, società che si occupa dell'analisi e della gestione della reputazione online di privati, aziende e brand. Benvenuto Andrea Barchiesi oggi a bordo campo. Grazie. Beh, dottor Barchiesi, tema del tutto innovativo quello di cui si occupa con la sua società, e direi che il materiale su cui lavorare, vedi caso Balotelli ma non solo, non manchi, eh? Assolutamente no, la rete ha aperto nuove problematiche e il materiale non manca, ma semplicemente perché la rete ha accorciato la distanza tra il pubblico, la popolazione e i personaggi pubblici, di conseguenza quindi è un fattore dirompente nel mondo della comunicazione. Ecco, diciamo che la scelta di Prandelli forse arriva anche un po' in ritardo, no? Perché altre federazioni, come ad esempio quella inglese, già da tempo hanno attuato un codice di comportamento anche sui social network per i loro giocatori. È possibile? Come valuta intanto questa scelta? La ritiene opportuna dal punto di vista aziendale, visto che poi la nazionale è un'azienda, insomma? La scelta è correttissima, giustamente come dicevo, un po' in ritardo. Nel senso che non solo le altre federazioni, ma anche ad esempio le testate giornalistiche si stanno interrogando da tempo sul tema, anche a causa di vari incidenti che hanno portato all'attenzione il problema. Quindi sicuramente il tempismo a posteriori non è stato eccezionale, ma è fondamentale provare a regolamentare e soprattutto formare queste nuove tematiche e le persone che vi operano. La cosa interessante da evidenziare è che non basterà comunque un regolamento, saranno fondamentali gli interpreti intesi non solo come giocatori ma anche come uno staff di persone, magari quello stesso staff della comunicazione della nazionale, che sarà chiamato un po' anche a reinventare il proprio ruolo, no? È esattamente così, devono reinventarsi, devono cambiare il ruolo, oppure comprendere che la comunicazione digitale è molto diversa dalla comunicazione di tipo offline, come si dice in gergo, quella di giornali. Di conseguenza sì, devono adattarsi, anche perché si possono creare dei grossi danni sia all'immagine, ma non solo della federazione, non solo della squadra, ma anche a quella del giocatore e a volte quella della nazione. Ecco, a proposito di danni, ma quel tweet galeotto, inopportuno, chiamatelo un po' come volete, di Balotelli in quel di Napoli, quanto può essere costato al giocatore in termini di immagine e non solo, Ma i danni possono essere significativi, ricordiamo che ci sono anche dei discorsi di affezione che i tifosi hanno verso la figura, e la figura deve gran parte al suo carisma, alla sua immagine, al suo valore, e anche a degli sponsor dietro. Quando una figura diventa, tra virgolette, imbarazzante per gli sponsor, è chiaro che cambia nettamente il suo valore. Questa è una cosa che all'estero hanno capito in modo netto. Di conseguenza bisogna fare molta attenzione a comprendere e a gestire bene la propria immagine. Sono a tutti gli effetti dei personaggi pubblici e delle aziende. Ecco, ma non c'è un po' il fascino anche del bad boy, cioè il Balotelli che se ne frega di tutto e tutti e pensa solamente a correre dietro al pallone, anche in quel contesto così particolare di testimonianza contro l'illegalità, eccetera, eccetera? Ma il fascino del bad boy avviene finché, diciamo, consono a violare solo alcune delle regole, ce ne sono altre che invece rappresentano un po' i valori, tipo ad esempio la lotta alla mafia è uno dei valori indiscutibili dell'Italia, quindi se si fa il bad boy, nel senso che si va a dormire tardi e si va in discoteca, l'italiano è più disposto a perdonare, su altri valori molto meno, e si creano invece proprio delle distanze poi umane. Quindi insomma, se è facile il passaggio via Twitter da bad boy a stupido, sintetizzando in maniera brutale, nell'opinione generale. Non solo stupido, ma anche magari a socialmente non risonante, non adatto alla comunità. Ma senta, per provare a incatenare queste dita impazzite che smanettano questi 140 caratteri, qualche suggerimento, mettiamoci anche dalla parte di Super Mario e di chi lo circonda, diciamo potenzialmente ha un'arma nucleare online sempre carica, Super Mario o anche altri, Purtroppo è verissimo, il cellulare ormai è un'arma a tutti gli effetti. Ed effettivamente può essere utilizzata in qualsiasi momento, nella camera di un albergo, in un taxi, quindi è anche imprevedibile quando possano essere dette delle cose spiacevoli per la squadra o per la popolazione in toto. Detto questo, come fare? Serve formazione, serve consapevolezza. Fondamentalmente per guidare un'auto serve una patente e questo è risaputo, tutti capiscono i danni che si possono fare non sapendo guidare un'auto. Non siamo ancora arrivati alla patente per utilizzare i social media, ma sarebbe molto utile che ci fosse e forse un giorno ci sarà. Ecco, poi nel caso di Balotelli pure al volante qualche problemino, qualche multa ogni tanto la prende, ma la cosa interessante in questo discorso, uno degli aspetti interessanti è quello che accade ai comuni mortali, perché Balotelli magari ci rimette qualche contratto pubblicitario, vede svalutato il proprio valore sul mercato come calciatore perché al tavolo delle trattative la controparte gli fa pesare che è difficile gestirlo in questo senso, eccetera eccetera, ma c'è una categoria di gente normale come possiamo essere noi che da questa incapacità di guidare la macchina Facebook, la macchina Twitter, arriva anche a perdere il lavoro, come fosse una postmoderna patologia, no dottor Barchesi? È assolutamente così, il problema è che tutte le persone, chiamiamole normali, usano Facebook e i social network con grande disinvoltura, postando delle cose pensando di essere nel salotto di casa, ma in realtà non siamo nel salotto di casa, li può vedere il nostro datore di lavoro, le possono vedere altri amici e soprattutto una cosa che sembra sensata quel giorno, tra 10 anni può diventare imbarazzante, come ad esempio una foto in cui in una festa universitaria si sta bevendo, in sede di colloquio, quando si cerca lavoro, tra 2 anni potrebbe essere la ragione per cui non veniamo neanche chiamati, quindi non veniamo bocciati al colloquio, ma veniamo scartati a priori. Senza saperlo a volte, perché le aziende fanno questa ricerca anche a nostra insaputa, no? Sì, ne siamo sicuri perché da un lato abbiamo fatto una ricerca e quindi oltre il 60% delle aziende verificano online e anche perché ce lo chiedono a volte, soprattutto per i profili più alti, quindi non è per nulla stupefacente quello che stiamo dicendo, mentre in realtà le persone si comportano come se non fosse così. Senta, le sottopongo, in virtù del suo ruolo di esperto, anche un altro tweet che ha generato non poche polemiche. La capitale indonesiana ribattezzata il 15 ottobre, non più Giacarta ma Giacartone. È il tweet di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che ha commentato così il passaggio di proprietà dall'Inter al magnate indonesiano Tohir, facendo riferimento a quello che i tifosi juventini considerano lo scudetto di cartone per eccellenza, cioè quello assegnato all'Inter a tavolino dopo Calciopoli nel 2006. Ecco, un tweet di questo tipo che farà ridere molti e invece scontenta molti altri, che valore ha? Ma fondamentalmente rientra nei tweet tattici, quelli che sono un po' goliardici. Bisogna fare attenzione che ogni atomo di comunicazione è un po' una miccia su una polveriera più grande. Nel caso in cui ci siano poi dei nervi scoperti, delle situazioni possono riesplodere ed essere aggregate tutte sotto quest'atomo di contenuto. Quindi molto spesso, lo vediamo anche nelle aziende, si parte da un commento innocuo per poi rivedersi tutti i peccati sotto elencati con estrema dovizia. Quindi si crea un autogol, giusto per rimanere in termini calcistico. Ecco, ma secondo lei, proviamo a immaginare, ci sarà stato qualcuno dello staff bianconero che ha avuto l'ardire di andare dal presidente e dirgli ma forse è meglio che non lo facciamo questo tweet, oppure è partito dal proprio iPhone un tweet impazzito? Come dicevamo prima, la vera arma è ormai il cellulare, il dispositivo mobile, quello può sparare in qualsiasi momento ed è veramente difficile per chi coordina la comunicazione tenere sotto controllo tutti questi device. Le chiedo invece, a monte è possibile fare dal punto di vista tecnico una selezione, diciamo, o comunque impostare questi aggeggi in modo tale che non combinino guai, anche se poi non operano certo da soli? Sì, si può fare, si possono coordinare, sincronizzare, mettere dei processi di autorizzazione, che sono dei sistemi di tutoraggio in pratica, cioè ovvero di assistenza a dei commenti impulsivi. Ecco, insomma, direi che quest'ultima risposta di Andrea Barchesi, amministratore delegato di Reputation Manager, magari ben si adatta almeno a un paio dei personaggi a cui abbiamo fatto riferimento oggi. Allora, aspettiamo questo codice comportamentale per i social network che la Federcalcio presto varerà, e intanto grazie a Andrea Barchesi per averci aiutato a capirne parecchio di più oggi qui a Bordo Campo. Grazie a voi. A bordo campo. Razzismo, discriminazione territoriale, cori, striscioni, sanzioni, polemiche, non è certo materia nuova qui a bordo campo e ai noi anche nell'attualità del nostro campionato, come ben dimostrano questi ultimi giorni. Oggi proprio qui a bordo campo ne parliamo con un ospite d'eccezione, siamo andati a scovarlo a Dubai, dove il lavoro di giornalista l'ha portato in queste ore. Benvenuto a bordo campo a Gianni Merlo, della Gazzetta, presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva e componente della Task Force Antirazzismo della FIFA. Ben trovato Gianni. Ben trovati anche voi, sono molto felice di essere con voi oggi. Allora Gianni, tanti i temi che ci impone l'attualità di questi giorni. Ti abbiamo chiamato qui a bordo campo per ragionare con te soprattutto del lavoro della Task Force Antirazzismo della FIFA. Abbiamo, diciamo, scoperto questo organismo a ridosso dell'episodio che coinvolse nel gennaio scorso Kevin Prince Boateng a Busto Arsizio, no? Con la clamorosa protesta da parte del giocatore allora milanista, che poi è diventato ed è tuttora uno dei simboli della lotta contro il razzismo nel calcio. Ma insomma, questa task force si è andata a costituire. La prima domanda, forse un po' provocatoria, ma serve a qualcosa? Beh, diciamo che come tutte le task force o le commissioni hanno bisogno di un certo periodo per prendere il ritmo, perché le due riunioni iniziali sono state usate proprio per cercare di studiare il fenomeno dalle varie prospettive, perché i vari componenti vengono da diverse realtà e quindi era giusto che esprimessero la loro opinione. Aiutaci a capire da chi è composta, chi siete intorno a questo tavolo, questo gruppo di lavoro? Il chairman è Jeffrey Webb, che è il presidente del Centro America, Centro e Nord America della FIFA. È un uomo che arriva dalle isole Cayman, un uomo molto equilibrato, molto, molto sereno. Ma nella prima riunione soprattutto è stato Blatter che ha dato il là per riuscire a impostare tutto il discorso, vari tipi di componenti. C'è anche l'arbitro che ha lo stesso cognome, Webb, e Howard Webb. È estremamente equilibrato, perché è stato lui a parlare qual è il ruolo che può svolgere l'arbitro, perché in una situazione veramente difficile, lui dice che si trova a disagio a dover prendere una decisione drastica come fermare una partita. È successo in Inghilterra che c'era un unico razzista che urlava nello stadio ma questo è stato preso, impacchettato dagli steward e portato fuori, quindi lui dice: io non ho avuto nessun problema. Certo, lì è un po' più facile perché gli steward funzionano davvero, insomma. Sì, sì, l'hanno impacchettato e portato via. Però quando sono 100 chiaramente gli steward non li possono impacchettare, come era successo a Busto Arsizio e in altri posti. Il problema delicato, lui dice, quale tipo di responsabilità mi devo prendere e quando me la posso prendere? Perché diciamo che anche gli stessi arbitri devono essere poi allenati a capire, a monitorare la situazione esattamente per quello che è, perché non è facile fermare una partita. E io avevo anche aggiunto che ero d'accordo con lui, perché bisogna stare molto attenti, perché c'è una possibilità diversa che la gente magari talvolta sottovaluta, che se un coro razzista può fermare una partita, questo può fare il gioco delle scommesse clandestine. Mi spiego? Ah beh, certo. I bookmaker asiatici considerano finita la partita quando c'è un'interruzione forse di più di 10 minuti. Hai capito? Questo è un aspetto che magari in questi giorni c'era sfuggito. Quelli dell'Interpol, visto che come associazione internazionale della stampa da 2 anni facciamo una grossa campagna contro la corruzione, e c'era un agente dell'Interpol che mi aveva spiegato che erano state investigate alcune partite in Gran Bretagna, la Premier League, qualche anno fa, perché improvvisamente mancava la luce, ad esempio. si fermava la partita per 10 minuti, però non riusciva, poi si riprendeva regolarmente e finiva regolarmente. Però poi hanno scoperto che, diciamo, lo spegnimento di quei fari serviva talvolta, per chi scommetteva in un certo modo, a fare i soldi. Le vie delle scommesse sono infinite, Gianni. No, perché abbiamo visto che anche questo può essere un altro pericolo. Un gruppo di fanatici può talvolta tenere in scacco una società. Il grande rischio è che praticamente bisogna evitare di dare un potere nelle mani di questi uomini di fermare un match quando non gli aggrada un certo andamento. Proprio a questo proposito ti chiedo, Gianni, il Consiglio federale ha introdotto questa sorta di condizionale, no? Una graduazione delle sanzioni proprio per fatti di discriminazione razziale e territoriale dopo le polemiche di questi giorni. Ecco, nelle consultazioni informali che immagino avrai avuto con gli altri componenti della Task Force FIFA, qual è l'impressione che se ne ricava? Può essere una misura funzionale a recuperare quantomeno la parte sana dei nostri stadi? Loro lo sperano, perché di adesso l'ultima riunione è stato valutato il problema, prima di tutto di fare anche uno studio, un monitoraggio di tutte le situazioni nei diversi paesi, perché in ogni paese ci sono situazioni diverse e quindi anche per questa ragione è difficile creare una regola fissa, no? Perché magari in un paese succede una volta ogni tanto, in altri paesi invece l'azione razziale è ripetitiva e quindi magari l'intervento deve essere più duro rispetto in un posto che succede una volta sola e poi non succede più. Quindi è una materia estremamente delicata, perché può portare anche alle conseguenze estreme di giocare sui punti nella stagione successiva o nella stagione in corso di penalizzazione. Perché magari quello della possibilità di perdere dei punti può essere un deterrente maggiore rispetto alla chiusura di uno stadio, però al tempo stesso anche la perdita di punti può permettere a certi gruppi organizzati di ricattare i club. In questa task force sono presenti molti campioni, a partire dallo stesso Boateng. Qual è il loro effettivo contributo? Riescono a essere partecipi, presenti, motivati? Diciamo che i calciatori sono motivati, perché loro non vogliono dover affrontare queste situazioni, però sono anche, diciamo, l'anello debole, perché le loro posizioni possono essere diverse, possono avere una reazione quando sono in campo, ma poi non possono influire sulle decisioni finali, possono dare un'opinione, mentre altri dirigenti hanno la funzione di valutare quali possono essere veramente gli interventi da fare. Qui bisogna operare un'azione unica ed efficace per far vedere che non esistono possibilità di evitare le sanzioni da parte di qualcuno. Ma c'è la percezione in sede FIFA che l'Italia sia un caso particolarmente serio, particolarmente grave, o in qualche modo rientra in un quadro generale, diciamo, nella media della casistica? L'Italia è esattamente, magari ha avuto qualche espressione di più, però non è messa, diciamo, in una posizione di leadership in questo campo. Per fortuna. Diciamo che è uno dei paesi dove bisogna avere una maggiore attenzione, perché i casi si stanno ripetendo, però poi dobbiamo verificare se si tratta di vero razzismo o si tratta di interventi di altro tipo. Per questo la FIFA ha detto che bisogna avere una persona adeguata che assista alle partite e che può capire esattamente cosa sta succedendo. Io penso che una persona sia fondamentale per poter valutare, non è facile trovarle, bisogna anche allenarle, però poco a poco è un problema che può essere risolto. Ti lascio con una provocazione che arriva dal Brasile, dove un gruppo di avvocati ha proposto al Tribunale della Giustizia Sportiva una sanzione davvero particolare per i violenti e per i razzisti. Chiudere gli stadi sì, ma solamente ai tifosi uomini, razzisti e violenti, e riservarli in quei casi a donne e bambini. Beh, è una proposta singolare, Gianni, però forse potrebbe essere anche una strada nuova, no? Piuttosto che vedersi uno stadio o un settore vuoto, riempirlo in modo del tutto diverso, con un pubblico davvero capace di veicolare dei valori diversi. Sì, è un'idea che può far discutere, che diciamo che può risultare simpatica, ma difficile da operare, anche se esistono in altri paesi invece stadi che sono proibiti alle donne, come in taluni paesi islamici, o se vai in Iran, in certe gare le donne non possono partecipare a certi tipi di sport, oppure diciamo che se c'è una gara di football femminile solo le donne sono ammesse e gli uomini no. Prendiamo la parte buona di questa provocazione, mettiamo da parte invece le separazioni sessiste e soprattutto ringraziamo Gianni Merlo, inviato della Gazzetta dello Sport, presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva e membro della Task Force Antirazzismo della FIFA, per essere stato nostro ospite oggi qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci attraverso il nostro sito www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e anche via mail all'indirizzo abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come sempre, per domenica prossima alle 16.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.